È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. E allora eccoci qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, tutti coloro che mi hanno mandato una bella foto di tre pere. Li ringrazio questa mattina, ma per noi è una scoppola molto salutare quella col Genoa, quella che ci riporta alle nostre orbite, alle nostre quote di crociera verso un tranquillo sesto, settimo posto. Quello meritiamo e quello avremo. E alè, e alè. Allora, cari ascoltatori, siamo pronti nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Avanti! Oh, non sanno di che parlare i giornali, In questo mercoledì 26 ottobre, intanto, manovra, le novità su fisco e pensioni. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. E poi l'Europa che tiene banco, la lettera finalmente è arrivata, finalmente nel senso che se ne è parlato per giorni, poi è arrivata. Corriere della Sera, Europa, Renzi pronto al veto, la lettera di Bruxelles sulla manovra, distanze rispetto agli impegni presi. Per Repubblica, manovra, ultimatum dell'Unione Europea. La Stampa, la lettera dell'Unione Europea, impegni non rispettati. Per Il Messaggero, richiamo dell'Unione Europea, Renzi pronti al veto. Il Giorno, manovra, alto là dell'Unione Europea. Alcuni quotidiani invece aprono sulla protesta di Gorino che ha portato a cacciare 12 immigrate che dovevano arrivare lì. Muro di casa nostra è il titolo di Avvenire, mentre Il Manifesto titola A quel paese. La verità invece sta dalla parte di queste proteste. Famiglie in rivolta contro i prefetti. Un paese fa le barricate contro l'esproprio dell'unico luogo di ritrovo, impedisce l'arrivo dei profughi. E poi il rinvio del taglio dei costi della politica. Il giornale, Renzi vota no. Costi della politica. Libero, l'armata anticasta di Brunetta. C'è una foto di Brunetta da solo, abbandonato da tutti i suoi colleghi, parla alla Camera. Mentre Il Fatto Quotidiano sfasciano la Costituzione ma si tengono il malloppo. Questo è il titolo di prima pagina. E alcune notizie da cui voglio partire riguardano proprio i malloppi. Malloppi vari, soldi, soldi tanti o soldi pochi? Che dite, 75 milioni sono tanti o pochi? C'è Carmelo Lauricella che è svenuto. È svenuto a questa cifra. 75 milioni, si è alzato il velo sulle liquidità di Bernardo Caprotti, morto di recente, patron di Esselunga, fondatore di Esselunga. 75 milioni, che poi sono la metà di questo patrimonio liquido, vanno alla segretaria. Germana Chiodi eredita 75 milioni di euro. E come potete immaginare, tutti i giornali oggi dedicano una pagina a questo. Sara Bennewitz della Repubblica riesce anche a avere un colloquio, qualche frase da Germana Chiodi, la segretaria erede. Col dottor Caprotti ci siamo voluti bene. Questo è il titolo del colloquio a pagina 19 di Repubblica. Lei, che è entrata in Esselunga nel 68, non ancora ventenne, come impiegata di contabilità e dopo qualche anno viene promossa assistente alla segreteria di direzione, dice di lei che non è mai stata solo la segretaria del dottore, ma qualcosa di più, il suo braccio destro, la sua donna di fiducia, una lavoratrice indefessa, tanto che ancora ieri, fino a tarda sera, era nella sede a Limito di Pioltello a lavorare come consulente, perché quando ho maturato la pensione, dice Bernardo, mi ha chiesto di rimanere a lavorare finché cede a lui, e io sono rimasta. Facevo come le commesse, me ne andavo dall'ufficio un secondo dopo che era uscito lui. Caprotti era un genio, anche a 80 anni aveva la capacità di riempire le stanze e di trascinare le persone. Mi piaceva stare con lui, ci stavo più tempo possibile, gli ho voluto bene e lui ne ha voluto a me. E poi racconta la nascita da un'idea della segretaria che battezza Fidati, della Fidati Card. Non solo il nome della Fidati, sono stata ascoltata dopo varie discussioni su tante idee che ho avuto per Esselunga. Vabbè, racconta così, non dice nulla della eredità, ma 75 milioni di euro alla segretaria di Caprotti. cifre ben più modeste, molto più modeste, quelle che portano i riders cosiddetti di Foodora alla Camera oggi. Foodora è questa azienda tedesca che c'è anche in Italia, soprattutto a Torino, ma non solo. Sono coloro che vi portano il cibo a casa, voi ordinate magari la pizza, ordinate una cena, ordinate qualsiasi cosa e loro vengono pagati e l'azienda però ha deciso di pagarli non più a ore ma a cottimo, a consegna. E allora c'è questa protesta, come racconta Filomena Greco a pagina 13 del Sole 24 Ore, i rider di Foodora saranno ascoltati alla Camera, nel senso che arriva alla Camera grazie all'interpellanza di Giorgio Airaudo, onorevole. La vicenda Foodora saranno ascoltati nel corso di una audizione dopo l'interpellanza di Airaudo. E tra l'altro, questo per quel che riguarda la cronaca, il Fatto Quotidiano dedica una pagina proprio a questo, pagina 10. Segue per un giorno Daniele, o meglio una sera, Daniele, rider senior, ovvero fattorino anziano. Sfreccia in bicicletta per le strade di Torino, Stefano Caselli lo segue. Il titolo è In bici dietro agli ultimi schiavi. Beh, forse schiavi è una parola un po' forte. Comunque 40 km di corsa in una notte, in bicicletta ovviamente, per 2,70 euro a consegna, pedalando e rischiando l'osso del collo in mezzo al traffico con rider Daniele. Eccola qui la app, c'è il cicalino e bisogna consegnare una pizza. Parte, si inforca in bici il primo chilometro e mezzo. Poi la seconda consegna, gelateria Grom, in via L'Aquila, quartiere San Donato, aspettano una vaschetta di gelato, 2,5 km da fare, siamo già in ritardo. Non c'è tempo per le chiacchiere, subito in via Cernaia, più di un chilometro per una pasta alla norma, sono le 20:37, già la quarta consegna. Daniele ride, dice, finisce che diamo ragione all'azienda così, se veniamo pagati a cottimo. Il problema è che in realtà molto spesso le consegne non ci sono e non c'è lavoro. Beh, il dibattito su Foodora è bella, questa pagina anche del Fatto Quotidiano che segue uno di questi operatori driver, o meglio il driver, no, rider, visto che va in bicicletta, che consegna il cibo per 2,70 euro a consegna. Sempre a proposito di cifre invece, avete mica 4.000 euro sotto mano? Tu no, Carmelo? No. Va bene, comunque è il nuovo lavoro tra i venditori di tesi di laurea, 4.000 euro e ve la scriviamo noi. Una cosa, insomma, mi sembra abbastanza, non so, adesso non vorrei dire illegale, ma voglio dire, uno la tesi di laurea non se la deve scrivere da sé. Comunque, dai neolaureati a vere società mascherate da consulente, da consulenti, ecco chi fa affari a Milano guadagnando fino a 13 euro a pagina con testi su misura che aggirano i software antiplagio degli Atenei. Tra i venditori di tesi di laurea, per 4.000 euro la scriviamo noi. Claudia Zanella racconta questa inchiesta, si finge laureanda, chiede informazioni ed ecco qui. Menù alla carte, affiancamento, stesura parziale o completa per mano degli esperti, si prendono in carico anche le correzioni dei relatori, vantano team di ex professori in pensione, neolaureati col massimo dei voti, ricercatori, poi c'è il compilatore artigianale, magari laureato in un'altra materia che si improvvisa, come Lorenzo che dice vengo da studi economici ma ho fatto anche lavori di storia e filosofia, insomma l'ultima frontiera del lavoro, l'ultima non in ordine di tempo, che c'è da un po', ma oggi Repubblica dedica una pagina a questo, 4.000 euro e scriviamo noi la tesi di laurea per voi. Sempre a proposito di soldi, invece, c'è una vicenda di cronaca nera che riguarda Jacqueline Verrac, 76 anni. Voi direte chi è? Jacqueline Verrac è una proprietaria di palazzi e del Grand Hotel a Cannes, è una milionaria, è una signora, una manager che ieri in pieno giorno a Nizza è stata rapita e messa come nei rapimenti dei film, buttata dentro una macchina e portata via. Tra l'altro, racconta il Messaggero in questa pagina, Nizza, sequestro da film per la miliardaria, non ha mai voluto guardie del corpo e avrebbe dovuto, visto che a 76 anni era scampata già a un tentativo di rapimento nel 2013, ma allora era riuscita a dare l'allarme, l'avevano già quasi infilata nel portabagagli, ma lei ha scalciato, divincolandosi, liberandosi, e poi ha continuato la sua vita, un lusso sobrio, nonostante una fortuna colossale. Lunedì invece intorno a mezzogiorno i rapitori l'hanno aspettata dove sapevano che sarebbe arrivata nel punto esatto del precedente tentativo davanti al garage sul retro del palazzo dove vive. In due hanno aspettato che uscisse dalla farmacia e Madame Verac è stata bloccata e messa col coperto il viso e la testa trascinata su una macchina. Nizza, il sequestro da film per la miliardaria. Rimango sul messaggero perché si racconta per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Che cosa? Che c'è un comune nel quale il 50% degli impiegati sono indagati per truffa. Il classico caso dei furbetti o mascalzoni del cartellino. Comune abruzzese di Sulmona. Il sindaco Anna Maria Casini non sa più che fare. A 4 mesi dal suo insediamento si è svegliata ieri con la metà del personale indagato per truffa ai danni dello Stato. 46 dipendenti su 102 e ora l'amministrazione rischia pure la paralisi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Juve, il cugino cleptomane di Alessandro Milan. Bella, grazie, bellissima. Cugino è bellissima. Va bene, grande caro ascoltatore. Allora, siamo qui. In molti giornali parlano della manovra, delle due pagine secche, come scrive Repubblica con Roberto Petrini a pagina 6, due pagine secche unite a un ultimatum, l'Italia che rischia entro giovedì 27 ottobre. Qui in questa lettera, nel mirino del commissario Dombrovskis e Pierre Moscovici e dunque dell'Unione Europea, ci sono tre rilievi: migranti, sisma, deficit strutturale. La risposta di Renzi è furiosa: l'Europa ci aiuti sui migranti o il governo è pronto a porre il veto sul bilancio europeo del 2017. Vado avanti non per me, ma per l'Italia. Anche Padoan è determinato, le misure non cambiano. Senza terremoto e migranti il deficit sarebbe rimasto sotto il 2%. Ci sono anche un paio di interviste. Tommaso Nannicini, sottosegretario a Palazzo Chigi, intervistato da Repubblica, Ferdinando Giuliano, dice: la lettera non deve preoccupare, fa parte di una interlocuzione normale. La manovra non cambia, coniuga bene equità e crescita, è quello di cui il Paese ha bisogno. E così anche il vice ministro De Vincenti sul Corriere della Sera dice: assolutamente la manovra non cambia. Questa è la linea che viene dettata da reazioni del governo. In tutto questo, scrive sempre Repubblica con Alberto D'Argenio in prima pagina, calcoli sbagliati, troveremo però l'intesa. Questo è il clima che si respira a Bruxelles. L'aspetto positivo è che la manovra italiana non sarà immediatamente bocciata dalla Commissione europea. Il lato negativo è che l'Italia resta nel mirino di Bruxelles. È nel terzo gruppo dei paesi che ieri ha ricevuto la missiva sui conti. Infatti il primo gruppo sono le lettere spedite ai paesi senza governo, Spagna e Lituania. Il secondo gruppo sono Belgio e Portogallo, nazioni le cui bozze di manovra, rispettando le regole, devono però dare garanzie sulla capacità di proseguire con le riforme. Il terzo gruppo, in cui c'è l'Italia, prevede appunto i paesi le cui finanziarie rischiano di non essere conformi alle regole. Insieme all'Italia c'è Cipro e Finlandia, fa sapere Repubblica. Comunque, l'ultimo braccio di ferro, i conti sono sbagliati, va rifatti, ma si troverà un'intesa, questo almeno si fa intuire. Tra l'altro, uno dei punti contestati sono proprio le spese per i migranti. Allora, ieri sui migranti abbiamo vissuto la giornata forse più nera, peggiore, da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista, comunque la pensiate. 12 donne, una delle quali incinta di 8 mesi, 12, non 12.000, 12 donne, una incinta di 8 mesi, lo ripeto, che dovevano andare a Gorino, in provincia di Ferrara, sul delta del Po ferrarese, dove il prefetto ha di fatto sequestrato un ostello. E infatti l'intervista più interessante è la proprietaria dell'ostello, viene intervistata da Libero a pagina 9. È una cittadina serba, Cioè, capite il cortocircuito di questa situazione, di uno Stato che non sa gestire le cose, un'emergenza del genere, emergenza poi, 20 anni che c'è l'emergenza, non sa gestire questi numeri, requisisce un ostello a una cittadina italiana, italo-serba, che quindi dice a Libero: ma che razzismo, ma quale razzismo, mi fanno ridere, io sono serba, ci sono un sacco di stranieri in paese, non ci sono mai stati problemi tra di noi, ci conosciamo come dei fratelli, lo sanno cosa significa essere razzisti? E però un giorno mi arrivano qua, arrivano da Samela Nikolic, 30 anni, titolare dell'ostello Amore Natura di Gorino, mi consegnano la lettera e ho scoperto che di fatto mi era stato requisito l'ostello, anche la mia stanza, dove non avrei neanche potuto più entrare per cambiarmi. E dice al ministro Alfano: non sa di cosa sta parlando. E poi che cosa succede? Che questa donna ha mobilitato le persone del paese che conosce e le barricate nei confronti di 12 donne. Eccole qua, Marco Imarisio, l'inviato, dicono 11 donne, poi diventa un'invasione. Ah, l'invasione, le cavallette arrivano, l'invasione. E chi sono queste donne, tra l'altro? Repubblica le presenta, pagina 3, eccole qua, tre di loro. Belinda, infermiera della Sierra Leone, dice: sono scappata perché hanno incarcerato mio marito per via di alcune manifestazioni politiche alle quali aveva partecipato. Volevano venire a prendere anche me e sono scappata. Joy, 20 anni, dalla Nigeria, incinta dell'ottavo mese, spero di dargli la vita migliore possibile, sono sicuro che sarà un maschio. Michael. E poi Faith, cioè Fede, dalla Nigeria anche lei, 20 anni, capelli neri, vengo dal nord del paese dove c'è Boko Haram, i fondamentalisti hanno attaccato la mia famiglia, siamo scappati verso il Mali. Ecco, queste sono tre delle 12 donne che dovevano andare lì. In tutto questo, giusto per dire l'impazzimento della situazione, c'è l'ira di Alfano e ora rischia di saltare il prefetto di Ferrara, Tortora. L'ira di Alfano non è Italia, in bilico il prefetto Tortora, perché il messaggio è stato effettivamente devastante, cioè che il blocco di 100 persone ha portato il prefetto a cambiare idea. Il messaggio, insomma, è questo: cari italiani, manifestate, andate in piazza, fate le barricate, che così avrete ragione, perché il prefetto tornerà sui suoi passi. All'origine della protesta, scrive il Messaggero, potrebbe esserci stato un difetto di comunicazione, ma quello che sembra aver pesato è la scarsa capacità di gestire l'emergenza. Ma dai, aggiungo io. A un punto tale che il prefetto di Ferrara, Michele Tortora, ha scelto di fare un pericoloso dietrofront e davanti alle barricate dei pochi abitanti dei comuni di Goro e Gorino ha preferito trasferire 12 donne e 8 bambini in altre strutture della provincia ferrarese. E per il ministero è un pericoloso precedente. Gorino, la vergogna delle 12 profughe, questo è il titolo del quotidiano Avvenire. E anche Renzi, la sensazione, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere, ha questa idea del mai cedere alla piazza. E invece si è ceduto alla piazza e con un pericoloso dietrofront, eccoci qua a dover gestire questa situazione a dir poco paradossale. Ma meno male che arriva colui che risolve tutto, il prefetto Mauro Meazza. Buongiorno, intanto in grandi auguri per la partita di questa sera. Anduno me l'hai fatti ieri, ma te li faccio io per la partita dell'Inter. Ma grazie caro Alessandro, una buona giornata e naturalmente dopo una splendida serata di ieri penso che tu sia assolutamente di buon umore. Ottimo. Allora, no, tre cose. Per caso adesso è venuto questa cosa. Sì, volevo due. Dirti, parliamo della manovra. Sì. Parliamo della manovra perché, come forse hai intuito, la manovra è in due tempi, un po' come il rasoio Bilama di qualche anno fa. Ti ricordi il rasoio Bilama? Come ecco. Allora, la prima parte della manovra è il decreto legge 193. Tu oggi vai nelle pagine di norme e tributi che sempre leggerai religiosamente e puoi anche estrarre 4 pagine che ti parlano della sanatoria delle cartelle e delle multe. Sì. È presente? Tutte le spiegazioni, questa cosa, decreto legge 193 già in vigore, quindi un po' l'aperitivo o l'apericena, se vuoi, della manovra usando questo neologismo. Poi però c'è il piatto forte, che è la bozza del disegno di legge, della legge di bilancio vera e propria. Ecco lì, allora torni indietro nelle primissime pagine, vai a pagina 5, a pagina 7, tutte le novità emerse finora dalla bozza. E allora scoprirai, ad esempio, che l'APE, hai presente l'APE? Sì. Oh, l'APE, devi chiederlo almeno per 6 mesi. Con 6 mesi riesci ad arrivare alla pensione? Non credo, perché beato te, sei molto giovane. Però l'APE, però minima, magari. L'APE minima, appunto, la richiesta minima per l'APE è di 6 mesi. E poi tutte le altre novità che emergono da questa bozza ancora del DDL. Questa è la cena che si sta cucinando. Già pronto invece il decreto legge di cui ti dicevo. Oh, hai festeggiato, vabbè, ieri sera eri impegnato, lo so, però hai festeggiato il condominio day. Stato distratto, perché magari sei stato distratto da vicende calcistiche, allora ti inviterei non solo a leggere oggi le prime risposte su norme e tributi, ma anche a collegarti al portale del quotidiano del condominio. Trovi l'indirizzo proprio nella prima pagina di norme e tributi, c'è tutta una ampia messe di risposte, diciamo ampia come il risultato di ieri sera calcisticamente parlando. Certo. Oh, poi ti segnalo così qua e là, cogliendo fior da fiore davvero. Oggi con il Sole 24 Ore una guida per mettersi in proprio, non sia mai che magari qualche allenatore resta a spasso, vuole avviare un'attività, questo potrebbe già succedere stasera ad esempio, c'è una guida a mettersi in proprio, se sa l'italiano è più favorito. Poi ti segnalo anche una cosa molto carina, c'è una vertenza che riguarda gli agri marmiferi di Carrara. Il marmo, perché dico agro marmifero? Perché la questione è un pochino risalente, si trascina da un primo editto del 1751 e ieri se ne è occupata la Corte Costituzionale, quindi stiamo lentamente cercando di sbrogliare questa matassa. Ha detto che adesso dovrà pensarci di nuovo il governo, c'è un conflitto di competenze tra governo e regione toscana. Ti racconto tutto, Alessandro Galimberti, su norme e tributi. Molte altre cose ti voglio dire, ti segnalo solo come articolo da meditazione i dati positivi, peraltro, sull'andamento dell'industria nel mese di agosto. Li trovi nelle pagine di Imprese e Territori che tu leggerai scrupolosamente. Per il momento, caro Alessandro, ti ringrazio molto degli auguri. Auguri, auguri. Ma grazie mille. E soprattutto, traffico! Alino Milan, la guardia forestale dell'informazione. Accendi la ruspa! Va bene, cari ascoltatori, eccoci qua, mandate le vostre sigle al 349-238-6666, ovviamente sigle in audio. Allora, ieri, come avevamo anticipato, come è finita la questione dei tagli ai parlamentari? Niente, con nulla di fatto, è chiaro che sarebbe stato tutto respinto in commissione, la legge, così è stato, e lo show, però è mancato anche un po' lo show, nel senso che fuori da Montecitorio Grillo aveva convocato tutti i militanti del Movimento 5 Stelle, ma tutti i giornali fanno notare che sono stati un centinaio, adesso ci saranno quelli che mi scriveranno, eravamo di più arrabbiati, insomma non è stato un mezzo flop dal punto di vista della mobilitazione di quelli del Movimento 5 Stelle fuori. Infatti la stampa lo scrive con Ilario Lombardo: Grillo deluso per il flop di piazza, poca gente, ne aspettavo di più. Però c'è l'aspetto invece dell'aula e la solita cacciara, la solita melina calcistica, i soliti dibattiti, il dato di fatto che nessuno ha risposto alla domanda: era bene tagliare della metà lo stipendio dei parlamentari, sì o no? Tutto poi, tra l'altro, non è che la legge è stata definita, il progetto di legge, insomma, sbagliato, errato, ingiusto, no, mandato in commissione per approfondimenti. Ovviamente, ve lo traduco io, verrà poi affossato alla prima occasione utile. Infatti anche il Fatto Quotidiano: non siamo contrari ai tagli, ma le mille giustificazioni dem. Il clima è stato quello un po' da battaglia, un po' da corrida, e va bene. La legge torna in commissione e anche, voglio dire, toni come Di Battista, che ha definito gentaglia la gente in Parlamento. A proposito di Movimento 5 Stelle, invece, c'è questa cosa del complotto del frigorifero. Questa intervista al sindaco di Roma Virginia Raggi su Repubblica ha dato adito poi a una ironia che ieri si è sprecata sui social, quando la Raggi ha fatto notare che stranamente nota un maggior aumento di frigoriferi abbandonati. Alla domanda insistita del direttore di Repubblica Mario Calabresi non si è lanciata a parlare apertamente di complotto, ma ecco che ha fatto capire che è strano tutti questi frigoriferi buttati per Roma. E infatti oggi sui giornali troverete foto di frigoriferi, oltre alle varie ironie. La Verità invece ha questo articolo dedicato alla moglie di Renzi, Agnese Landini, 39 anni. La buona scuola di Agnese, il posto anche senza titoli. Cristian Campigli e Alessia Pedrielli raccontano la storia della moglie di Renzi, assunta grazie alla buona scuola, ma con una chiamata diretta malgrado l'assenza di certificazione linguistica e didattica digitale. Lei stessa, alla richiesta di titoli, scrive: «Non possiedo ancora certificazioni linguistiche, ma ho buona padronanza dell'inglese e del francese. Sono intenzionata a iniziare il percorso di certificazione e per la didattica digitale ho acquisito competenze in materia autonoma, ma sono intenzionata a seguire corsi per incrementare le mie conoscenze». Scrive La Verità: poco importa, la moglie del premier viene comunque assunta a chiamata diretta. Tra l'altro tentano i cronisti di parlare con la preside della scuola dove insegna, ma la preside non parla con i giornalisti, se ne vada immediatamente, altrimenti abbiamo l'ordine di chiamare i carabinieri. Finisce così la brevissima esperienza dei cronisti della Verità per cercare di strappare qualche parola alla preside dove insegna la moglie del premier. Allora, attenzione! Vi segnalo che la Chiesa ha detto per le cremazioni che le ceneri devono essere tenute al cimitero, mai in casa né disperse. Queste sono le nuove, faccio vedere anche in diretta sulla pagina mia Facebook. Per carità, poi non si devono fare quelle cose come c'è quella società che trasforma il caro estinto in diamante. Un diamante per sempre, si diceva. Ecco, mamma adesso è un diamante. Sul giorno, dopo che la Chiesa ha dato le ultime disposizioni, parla Walter Mendizza, che perse la madre nell'80, nel 2010, alla scadenza dei termini per la sepoltura, decide di procedere alla diamantificazione delle ceneri. Ora sua mamma è un piccolo diamantino. La trasformazione del carbonio contenuto nei resti della cremazione, lui ora è amministratore di Agordanza Italia, società collegata alla capofila svizzera, lui stesso dice che è un business che non sfonda, non ci sono molti italiani disposti a trasformare il nonno in diamante. Però lui invece l'ha fatto, dice di essere contento e propone questa cosa. Vi segnalo una pagina di Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera che segue l'elemora che va a dare frutta, raccolta all'ortofrutta, raccoglie le rimanenze dei grossisti all'ortofrutta, all'ortomercato di Milano e poi lo distribuisce, fa parte del suo compito visto che è affidato ai servizi sociali, l'elemora, frutta e verdura per i poveri, le mattine al mercato di l'elemora, racconta un po' la sua vita dal lusso a una vita molto più umile. Ma va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi una pagina intera del Fatto Quotidiano dedicata a che cosa? Al fatto che vengono pubblicati molti libri, e questo si sa, ma molti libri hanno le cosiddette fascette. Avete presente sulla copertina, non so, 15ª ristampa, il primo libro con la garanzia soddisfatti o rimborsati, il libro più bello del West, il libro da leggere a letto, il libro di qui, il libro di qua, una fascetta editoriale, una pagina per raccontare che questa fascetta editoriale non si nega più a nessuno. Ma chi se ne frega!